in diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, buongiorno cari amici di CRM Happy Wake Up. Qui con voi questa mattina Patrizia Curreri, in vostra compagnia fino alle 12. Quindi abbiamo due ore piene di musica, di divertimento e di notizie e di consigli e di gossip. Quindi gossipiamo un poco, come si dice qua, cuttighiamo un poco, dai. Perché ci vuole un po' di leggerezza nella vita, appena svegli. Sì, lo so che dura un po' svegliarsi ora. Oggi è venerdì 25 gennaio 2013. Dice, si sa, quando arriva appunto il weekend si fa più fatica ad alzarsi, appunto già si pensa al sabato sera, alla domenica, cosa poter fare, cosa non dover fare. Ma noi oggi sappiamo quello che dobbiamo fare, dobbiamo divertirci, dobbiamo svegliarci con il sorriso appunto per affrontare questa giornata. E come lo fate? Fate mandando un sms a 335 5637 251, telefonare allo 0921 92 32 92. Io mi sveglio in questo modo, voi non lo so, fatemi sapere. I wish that this night would never be over. There's plenty of time to sleep when we die. So let's just stay awake until we grow older. Away until we grow older. If I had my way. chiudere gli occhi questa mattina a CRM Happy Wake Up, perché appunto il divertimento siamo solo appunto all'inizio. E oggi appunto abbiamo detto che il 25 gennaio 2013 e la chiesa ricorda la conversione di Paolo e i santi Gioventino e Massimino, quindi tanti tantissimi auguri a coloro che fanno oggi l'onomastico, nonché anche il compleanno, e festeggiano appunto questa bellissima giornata di sole a Cefalù, no, e un po' di nuvole, certe volte c'è il sole, certe volte un po' di nuvole, però si sente e si vede il freddo, come si sente e si vede anche la nostra musica CRM Happy Wake Up. Bene, oggi tra coloro che fanno il compleanno, quindi nel mondo dello spettacolo, del mondo della, anche della politica, abbiamo Virginia Woolf, scrittrice. Poi abbiamo Corazon Aquino, ex presidente delle Filippine, il grande Giorgio Gaber, che è nato nel 1939, poi Oriella Dorella, ballerina, Mario Castelnuovo, cantante, Alessandro Baricco, scrittore, Laura Merli, doppiatrice, Alicia Keys, quindi oggi dobbiamo sentire la sua canzone, bellissima canzone, l'ultimo successo, e poi Noemi, altra cantante nostrana, e che appunto famosissima, appunto abbiamo visto X Factor e anche a Sanremo, magari la sentiremo questa mattina, ma siamo partiti col piede giusto? Spero di sì, e continuiamo a continuare appunto questa mattina col piede giusto, svegliandoci con Fabri Fibra. Coda, timbro, firma, passa. Coda, timbro, firma, passa. Coda, timbro, firma, passa. Burocrazia, l'Italia si squaglia come burro, è pazzia. Una bella idea, arriva sempre a notte fonda come la polizia. Chi me lo spiega? Votavi Lega, sì, prega. Ora chi voti? Boh, Reagan. Ora Belen, prima chi? Meghan. Roba magica, simsalabim, microfono, molti si offrono. Io sono una sicurezza come il codice PIN. In alto, come dopo il check-in. Ho le note, do re mi, per le rime ho la scimmia come Remy. Alza lo stereo, c'è Fabri Fibra che non passa mai di moda, come la figa. Pronti, partenza, via. Si va per mari e monti, partenza, via. Qui siamo tutti pronti, pronti. Siamo tutti pronti, pronti. Siamo tutti pronti. Si va per mari e monti, via. Vengo dalla campagna, cresciuto al mare, alla mano come il tuo palmare. Pronti, via. Si va per mari e monti, via. Monti, via. Linguaggio ultraviolento, in TV come un ultraviolento. Cade giù tutto, come un terremoto, come Arisa, senza trucco. Non fa neanche 2000 euro l'uomo del 2000 che diceva Lucio Dalla. Occhi a palla, guarda la casta, sembra la serie TV Dallas. La verità sballa, è stupefacente, sempre più stufa la gente. Ti vedevi alla festa invitato speciale, invece sei in guerra inviato speciale. Questo pezzo fa colpo, lo so, come un banchiere fa colpo, lo so. Top top, chi bussa, chi è? Il commissario. Pronti, partenza, via. Si va per mari e monti, partenza, via. Qui siamo tutti pronti, pronti. Qui siamo tutti pronti, pronti. Qui siamo tutti pronti. Si va per mari e monti, via. Fumo bombe come a Kabul, missili come a Seul. Rap esorcista, scomodo come l'antidoping per un ciclista. Il caso chiuso e caso mai, canta il pezzo con me se lo sai. Cantanti incantano, nascosti e sporchi come i soldi che mancano. Tutti pronti per la partenza, ma da anni è una finta partenza. Dopo l'ultima grande occasione si rimane così, senza. Nella testa una voce rimbomba, tipo capitano la nave affonda. Terza, seconda, prima, il paese non si mette più in moto. Onda, tu aspetta qui, non ci tengo nella vita. L'ultima cosa che voglio sentire è libera. Lo stiamo perdendo come gli Abba. In Italia gridi mamma mia, ma dalla rabbia sfondiamo la gabbia. Pronti, partenza, via. Pronti, partenza, via. Si va per mari e monti, partenza, via. Qui siamo tutti. Siamo tutti pronti, pronti, siamo. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. This is the sensation, but I can't move away from you. This is the edge of patience, but you won't prove yourself to me. Still you drain my soul. Questo appunto David Guetta, Just One Last Time, inconfondibile con la sua musica veramente potente, energica, che è giusto appunto per questa mattina di venerdì 25 gennaio 2013. Ma donne, donne in ascolto, prendete nota e andate, prenotate già per Roma un viaggio nei giorni 3 e 4 febbraio. Sì, perché come già è una mania negli Stati Uniti, ora queste sono sbarcate in Italia. Si tratta delle Olimpiadi di manicure chiamate Nail Pics, le Olimpiadi dell'arte di stendere lo smalto sulle unghie, e si annuncia come il grande contest internazionale della Nail Art, con la partecipazione di migliaia di concorrenti provenienti da 50 paesi. L'originale gara arriva in Italia grazie a Antonio Sacripante, campione olimpico di Nail Art nel 2004 e nel 2005, trainer e giudice sportivo e di CEO di Nails e Beauty. La prima idea risale al 2001. In breve tempo la gara ha ottenuto un incredibile successo internazionale, creando da Los Angeles a Londra un'atmosfera artistica e creativa aperta anche ai principianti. Per tutti c'è l'emozione di gareggiare o almeno confrontarsi con i più grandi rappresentanti della Nile Art. Quindi per adesso sappiamo che la ricostruzione unghia, tutto questo mondo che riguarda appunto la pittura sulle unghie, quindi la pittura in 3D, fare dire così colà, sta diventando appunto un successone, veramente. Appunto tutte le donne sono ammaliate da questa novità e per questo ci hanno fatto veramente delle olimpiadi. Chissà quando, se li vedremo pure qua, da queste zone in Sicilia, scenderanno anche qua. E intanto noi continuiamo con la musica e mi raccomando, non dimenticate di mandare sms e telefonare allo 0921 92 32 92. Intanto ci ascoltiamo le Cerebro, Gun. Oh, oh, CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. avevi fa impazzire. Oh, sei bella come il sole. Conta solo l'amore, che tutto quello che ti serve può stare dentro al cuore. Ma se devo dirla tutta, non è il paradiso, ma l'inferno delle verità. Io metto col sorriso. Dici cos'è il padre, me l'hai uscita a mezza. E dove c'è uno strato, come ti vai a pezza. Sera e tornerò da te. È andata come è andata, la fortuna di incontrarti ancora. Sei bella come il sole, ah! E mi fa impazzire. Oh, sei bella come il sole, ah! E mi fa impazzire, ah! Siamo tutti dei ragazzi fortunati, dai, abbiamo il sole, abbiamo le nuvole, abbiamo tutto quello che ci, dai, che ci vuole per vivere una giornata serena. Abbiamo la famiglia, abbiamo il calore della famiglia e tanta salute, quello ci vuole per essere, per reputarsi fortunati anche davanti a questa crisi che un po' ci opprime. Però dai, dobbiamo trovare sempre il lato positivo delle cose, e l'ha trovato quindi quest'uomo proveniente dalla Cina. Lui appunto davanti magari alla crisi e inventa un'auto che va a vento. Altro che auto d'aria compressa, un contadino cinese ha realizzato un'auto che va a vento, non solo, anche prestazioni di tutto rispetto, essendo in grado di raggiungere una velocità di quasi 140 km orari. Il 55enne appunto cinese ha costruito l'auto in circa 3 mesi di lavoro nel suo garage. L'uomo racconta di essere stato appassionato di elettronica da quando era piccolo. Inoltre l'energia eolica è in grande evoluzione in Cina, praticamente ignorata qualche anno fa. Nel 2011 la Cina è stato il paese che ha messo in operatività più turbine, investendo quasi 35 miliardi di euro. Dunque il tizio, secondo quanto spiega, ha detto che il veicolo funziona a batteria ed è dotato di un generatore elettrico attivato da una ventola sul muso del veicolo, che viene fatta girare dal vento appunto. Inoltre il veicolo è dotato di ali ed energia solare sul posteriore, che sono dotate di pannelli solari in grado di anch'essi di ricaricare le batterie del veicolo. Questi sistemi permetterebbero di dover ricorrere in misura limitata alla ricarica tramite la rete elettrica e quindi utilizzare l'energia solare. Specialisti e tecnici però guardano all'invenzione di quest'uomo più come una curiosità che altro. Infatti generare energia con una ventola posizionata in questo modo appare sostanzialmente inutile, perché il maggiore sforzo che deve fare il motore per la resistenza creata dalla ventola è maggiore dell'energia che viene generata dalla ventola stessa. Quindi un po' questa invenzione sì, magari può essere riguardata, perché naturalmente ha qualche pecca, però è un'ottima idea, appunto, che proviene da un contadino che magari tra una coltivazione e un'altra, appunto, si dedica a questo bellissimo hobby, magari anche della meccanica, di costruire cose, invenzioni magari che possono servire mai per il futuro, dato che la benzina è alle stelle e quindi magari non ci possiamo permettere di comprare benzina, e quindi sfruttiamo l'energia del vento, del sole e della luna magari. E questo è Cupid. You're the perfect part of me. You're the oxygen I breathe. You're a superstar, a work of art, it's electricity. You're a yes in a world of no's. You're the Beatles to my Stones. It's a sweet romance, a spotlight dance. Girl, you shake me to my bones. Buongiorno, si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Try to tear us apart. Take the fire from my belly and the beat from my heart. ascolto i Coldplay, Hearts Like Heaven. CRM Happy Wake Up, sempre con me, con Patrizia Curreri. Ricordo i nostri numeri di telefono per poter interagire con me. Appunto, potete richiedere la vostra musica preferita, quella che vi vuole può svegliare appunto questa mattina del 25 gennaio 2013. Appunto, potete inviare un SMS al 335-5637-251 o telefonare allo 0921-92-32-92, oppure potete vederci anche su internet. Potete richiedere anche la vostra musica anche da lì, al sito www.crmhappyradio.it o ancora da Facebook, cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio. E se magari non siamo tra i vostri contatti, ci potete chiedere l'amicizia e noi vi accetteremo e accetteremo ma potete partecipare pure a un sondaggio indetto dal sito alfemminile.com riguardo appunto al, quindi mi rivolgo al mondo femminile nuovamente, se siete soddisfatti del vostro lavoro oppure pensate quindi di non ricevere uno stipendio adeguato o mirate a qualcosa di più. Appunto, le donne sono un universo sempre più al lavoro, per oltre la metà di loro infatti l'attività lavorativa extra domestica è importante quanto la propria vita privata, ma più di una su tre ritiene di non ricevere uno stipendio adeguato. Sono questi dati più rilevanti emersi da un sondaggio internazionale appunto pubblicato nel sito alfemminile.com, il sito web dedicato al mondo femminile, su un campione di donne che lavorano fuori casa. Il 65% degli utenti intervistate dichiara di non essere soddisfatto del livello di carriera raggiunto, ma di aspirare a posizioni sempre più alte. Alla domanda quali sono gli obiettivi professionali che ti sei prefissata per i prossimi tre anni, il 50% del campione ammette di desiderare un lavoro in cui esprimere al meglio le proprie competenze. Si dimostra invece più ambizioso il 15% degli utenti, che è determinato a salire di livello in azienda, e il 12% che desidererebbe mettersi a lavorare in proprio. Più della metà del campione, il 53%, invece considera il lavoro importante come la propria vita privata, ma solo il 5% mette il lavoro in cima alla scala dei propri valori. Quindi c'è un miscuglio di percentuali nella quale appunto le donne sembrano, da una parte c'è cioè il 5% appunto poco molto soddisfatta, ma abbiamo una grande percentuale che preferirebbe fare qualcosa di più e meritare qualcosa di più in questo mondo del lavoro che va pian piano scarseggiando. Però noi donne siamo forti e potremmo appunto mettere un punto in quel posto dove i punti non ce ne sono. E adesso ci ascoltiamo i Fan con Carry On a CRM Happy Wake Up. Rimanete con noi con tanta musica e tanto divertimento. Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said we are not. We are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. Carry on, carry on, carry on. So I met up with some friends at the edge of the night at a bar of 75. And we talked and talked about how our parents will die, all our neighbors. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Prendermi nell'hotel che costeggia il sole, e io confino a nord con blu, l'ovest è una parte mia, ho una mano ad est e l'altra a sud. Se mi vuoi vengo a nascere nella tua testa libera, e io non mendico attenzione, io sarei conquistatore, io vorrei che tu scegliessi me. Trionferà, trionferà la vita, insieme finire, spegnere per ripartire, non c'è strategia migliore quando non funziona. Al tuo onore che difendi ancora, lacrima mi liberi, lacrima si libera, e straripa dalle rughe mie. E se vuoi, sempre se lo vuoi, perché sai, non ti spingo a niente, e fai di me la tua virtù, fai di me qualcosa in più, scegli me tra i tanti, scegli me. Trionferà, trionferà la vita, insieme finire, spegnere per ripartire, non c'è strategia migliore quando non funziona. Alla volta di una nuova notizia, una notizia veramente graziosa, divertente e magari da attualizzare, non so, magari qua nelle vicinanze, almeno per mantenerci pure in forma. Un gruppo di architetti estoni ha realizzato quello che probabilmente è il tappeto elastico permanente più grande del mondo, lungo circa 51 metri e largo circa 2. Il tappeto è stato realizzato dallo studio Salto e nell'ambito di un festival dell'arte. È anche un'installazione artistica che vuole sfidare il concetto stesso di infrastruttura. Il tappeto elastico infatti sostituisce quella che dovrebbe essere una normale strada, che normalmente si preoccupa solo degli aspetti tecnici. Al contrario, il tappeto vuole creare un legame emotivo con chi lo attraversa e dare un'esperienza diversa di movimento e di percezione stessa dei dintorni. Sebbene il tappeto non sia in assoluto il più grande del mondo, è però tra i più grandi tappeti permanenti, cioè quelli che non vengono smontati subito dopo aver registrato il record, dato che è pensato per diventare infrastruttura permanente del parco che ospita la mostra. Veramente una cosa eccezionale. Qua vedo appunto le foto sul web e devo dire è veramente un'idea graziosa, e magari perché anche diverte, magari saltellando di qua e di là si arriva da un posto all'altro, e nel mentre si fa anche un po' di ginnastica che non fa male. E questi sono i Swedish House, Don't Worry Child, CRM Happy Wake Up. I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry now. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. We were as we are. I think of her now and then. I still hear the songs reminding me of a friend. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. I can't get these memories out of my mind. And some kind of madness started to evolve. I tried so hard to let you go, but some kind of madness is swallowing me whole. Yeah. i Muse Madness a CRM Happy Wake Up. Sono le 11.03 e abbiamo ancora un'oretta per stare insieme per ascoltare tanta di quella bella musica che ho in programma. Bene. È il momento anche di gossipare un po', ecco, come ho detto all'inizio, e c'è anche il momento di gossip, e questo riguarda la bellissima, l'affascinante Monica Bellucci, 49 anni compiuti lo scorso 30 settembre e due gravidanze alle spalle. Monica Bellucci, nonostante gli anni passino, rimane splendida e in forma, e mamma di Deva e Leon, sta pensando di trasferirsi in Brasile insieme al marito, anch'esso affascinante, Saint Cassel. Intanto si mantiene al top e vola a Milano dal dottor Sorrentino, il famoso dietologo dei VIP, quindi anche lei ha bisogno di una dieta, quindi abbiamo scoperto questo piccolo segretuccio di Monica Bellucci. L'attrice è stata sorpresa all'uscita dello studio medico nel centro Meneghino in total black. Scortata, Monica ha trovato i paparazzi pronti a immortalarla in strada, ma non ha sorriso, volto serio e occhialoni da sole neri, ha proseguito nella sua camminata senza però far nulla per sottrarsi agli scatti. La Bellucci forse riesce a tenersi in linea grazie a un programma di alimentazione personalizzato, quindi pensate un po', anche le più grandi VIP, anche la più bella, una delle più belle attrici italiane, ha bisogno di una dieta per mantenersi in forma, forse anche lei alza un po' troppo il gomito. Wanna get behind the wheel, but only one rider. I just feel got me swimming like a diver. Can't let go, I got plans in Okinawa. My heart's in Japan, quake losers and survivors. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, the minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Feel the moment, got me feeling like a lemon head. Put you in the box, just as wasn't this a cigarette. Single my regards, but regardless, I get arrested. Ain't worried about the killer, just a young and restless. Get mad, cause a quarter million on my necklace. Do you why I never said I was driving reckless? You and I know the jealousy is not impressive. Oh no, I can't stop, I was destined. I know you would've panicked. I know, caught up in the middle. I cry just a little when I think of letting go. I know, getting up over it. I cry just a little when I think of letting go. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Eccomi qui, qui e adesso. Io sono qui e ora mi sento libero. L'essenza non ha forma e senza estetica, l'istinto per la musica è come etica. Io sono qui con gli occhi chiusi per ascoltare, per inventare. Libero le gabbie del passato si dissolvono, non perdo tempo a disegnare altrove il domani. CRM Happy Wake Up, in questa volta in compagnia di Raff. Lo potremmo vedere anche a Catania, al Teatro Metropolitan, sabato 26 gennaio con Le Ragioni del Cuore Tour 2013, ma ancora domenica 27 gennaio a Palermo al Teatro Politeama. Quindi correte a comprare i biglietti perché Raff è qui in Sicilia e quindi lo dobbiamo vedere perché è bellissimo, le sue canzoni sono veramente profonde e è piene di amore e di passione. Ma continuiamo con la musica di CRM Happy Wake Up. Been calling in the distance, so I packed my things and ran far away from all the trouble I had caused with my two hands. Alone we traveled on with nothing but a shadow. We fled far away. around, I began to notice that we were nothing like the Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Being young and feeling high, we will never ever come down. Being high and feeling young, we will never ever come down. Bye. ascoltando sono i Dada Life, So Young, So High, CRM Happy Wake Up con me, con Patrizia Curreri. Parlando un po' di, sentendo un po' i bambini, sembra appunto la voce di un bambino, ecco che ci arriva un consiglio, almeno un modo di conoscere i nostri bambini, sempre dalla famosa grafologa Candida Livantino, e che ci aiuta a capire come fare a individuare e interpretare le paure dei bambini, dei loro disegni. E infatti appunto c'è, cioè, il bambino, naturalmente conosciamo la paura del buio e dei mostri e così via, anche di perdere l'affetto dei cari, ma questo si può scoprire dai loro bellissimi disegnini che fanno già dai 2 ai 5 anni. E in questa età si può manifestare la prima paura del buio. Io ancora l'ho adesso, non so come la manifesterò nei miei disegni, però continuo ancora imperterrita a esserci questa paura del buio. E appunto questa si manifesta tra i 2 ai 5 anni, bambini ipersensibili e timorosi. La si può riscontrare attraverso il disegno di un albero privo di colore e con un buco nel tronco. Questo buco rappresenta la tana nella quale il bambino si protegge dal buio della notte. Poi la paura dei mostri. Di solito questa paura è legata a racconti o fiabe che possono impressionare il bambino, ma può anche essere generata da minacce quali: se non fai il bravo chiamo la strega o il lupo cattivo. È una paura che può causare improvvisi risvegli notturni e trasformarsi in un vero e proprio incubo. Quindi stiamo attenti, i genitori e mamma e papà, nonno, non impressionare tanto il bambino, cioè prima capire anche la sensibilità del proprio figlio, e magari appunto magari è il caso di spaventarlo con il lupo, con la strega cattiva, però non troppo, perché appunto il bambino poi magari quello ipersensibile può derivarne appunto una paura veramente incontrollata. E nel disegno il bambino rappresenterà animali feroci, draghi o robot mostruosi. In un certo senso ne è attratto, perché misurandosi con loro cerca di esorcizzare la paura che prova. Poi l'altra paura, una delle più grandi paure dei bambini, è quella di perdere l'affetto dei genitori. Questo tipo di paura è spesso conseguente alla nascita di un fratellino o di una sorellina. Il bambino può anche avere atteggiamenti aggressivi o regredire a comportamenti infantili, come ad esempio fare la pipì a letto, vuole dormire nel lettone con i genitori. Nel disegnare il nucleo familiare rappresenterà se stesso nella culla oppure in braccio a uno dei genitori, e spesso il fratellino o la sorellina sarà escluso dal disegno, quindi dal nucleo familiare. Quindi è importante vedere appunto i disegni dei propri figli e poter scorgere da questi le proprie paure, i propri pensieri, i propri desideri. E questa è Noemi, tanti auguri, Vuoto a perdere. Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che mi guardo crescere, la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze, consapevolezze. Che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente. Da me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa senza neanche accorgermene, ora sono qui che guardo e mi guardo crescere, la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. un'altra da me stessa. Sono un vuoto a perdere, sono diventata questa, senza neanche accorgermene. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. CRM Happy Wake Up. Ricordo ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me. Potete inviare un sms al 335 5637 251, telefonare allo 0921 92 32 92. Ma questi numeri possono essere anche usati perché, perché magari volete un contatto con Gabriel Garco, perché è in cerca di una donna, di una donna da sposare, con cui fare i figli. Ad aprile appunto Gabriel Garco tornerà in TV, protagonista della fiction di Canale 5 Rodolfo Valentino La Leggenda, in cui nei panni del seduttore per eccellenza fa impazzire Asia Argento e Giuliana Desio. Ma Gabriel Garco non ha nessuna intenzione di fare lo scapolo d'oro a vita, tanto che, come spiega a Di Tutto, ha voglia di costruire una famiglia e poi mette a tacere rumors sulla sua sfera privata. Non sono bisex e con Manuela Arcuri solo un flirt. E infatti sembra che Gabriele Carco abbia avuto una storia passionale, come dice lui, con Manuela Arcuri, ma non naturalmente niente di così serio. Però vuole adesso mettersi a po' la testa a posto e quindi sposarsi anche domani mattina, dice. Bisogna vedere se una donna vorrà prendersi un uomo incapace di cavarsela da solo in casa, non so stirare, non so neanche cucinare. Quindi chiunque in ascolto e voglia un uomo come Gabriel Garco, però si addossa la fatica di stirare solo lei e di cucinare solo lei, beh, lui è disponibile, quindi magari ci contattate, noi contatteremo lui, oppure direttamente chiamate lui e vedete un po' di sposarvi anche più presto, perché lui si vuole sposare potrebbe sposarsi domani mattina, però chissà. Intanto è veramente un bell'uomo, certo, poi deve attrarre. Intanto, come dice Luca Carboni, c'ha un fisico bestiale. Ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai. Ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita. Ma quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga. Ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai. Anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai. Ci vuole un fisico bestiale, perché siamo sempre ad un incrocio. O sinistra, destra, oppure dritto. Il fatto è che è sempre un rischio. Ci vuole un attimo di pace, sai, di pace, sai. Di fare quello che ci piace, sai, mi piace, sai. Come dicono i proverbi, e lo dice anche mio zio. Mente sana, corpo sano, e adesso son convinto anch'io. Ci vuole molto allenamento, sai, allenamento, sai. Per stare dritti contro il vento, sai, contro il vento, sai. RM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. No, I said it's true. I gotta tell you, tell you. Rudimental, Feel the Love con John Newman, CRM Happy Wake Up. Se parlare di gelato naturalmente in questa stagione mi fa venire in mente un semplice cono da passeggio, però con i ghiaccioli dentro, magari nei classici gusti vaniglia e cioccolato, da leccare durante una tranquilla passeggiata estiva e non invernale, sappiate che il mondo è andato molto avanti e il gelato si può mangiare anche in inverno e magari in gusti molto svariati. Abbiamo visto appunto durante lo Shebe Festival, il festival appunto del gelato che si svolge a settembre qui a Cefalù, appunto quest'anno abbiamo visto anche il particolare gelato al parmigiano che è piaciuto a pochi, a molti, chissà, a me non è piaciuto sinceramente, però c'erano tantissimi altri gusti particolari come anche quello all'olio d'oliva e il tartufo, buonissimo, veramente buono quello lì. Quindi beh, chissà, poi ognuno c'ha i suoi gusti e quindi dei gusti bussano disputando un west. E allora quindi è che il è questo appunto perché il festival che si è svolto invece a Rimini, il SIGEP, il Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria e Panificazione Artigianale, ha proposto un mondo e che il mondo futuro sarà gelato, cioè si mangerà a colazione, si mangerà a pranzo, si mangerà a cena in qualunque variante. E in questa occasione possiamo anche dire in anteprima, appunto saremo uno dei primi testate che lo stiamo dicendo, il nuovo slogan del nuovo Shebe Festival, il futuro Shebe Festival, quello che si svolgerà a settembre qua a Cefalù dal 4 all'8 settembre 2013. Quindi per chi magari deve organizzare qualche vacanza, qualche cosa, pensate, non prendete impegni dal 4 all'8 settembre 2013 con lo Shebert Gelatieri da Oscar. Quindi il settimo festival internazionale del gelato artigianale a Cefalù, quindi non mancate perché ce ne saranno di tanti gusti, appunto con le nuove novità di questo festival che si sta svolgendo a Rimini, che porterà appunto novità anche al nostro Sheber Festival. Quindi siete numerosi e ripeto, dal 4 all'8 settembre 2013 Shebert Gelatieri da Oscar, quindi vedremo quest'anno quale sarà la novità più eclatante. Once upon a time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone. You found me, you found me, you found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I fell hard, you took a step back. Never been till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now. Blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard ground. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. Oh, oh, trouble, trouble, trouble. No apologies. He'll never see you cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning, you're drowning, you're drowning. And I heard you moved on from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see, now I see, il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Alicia Keys, che oggi è il suo compleanno, quindi tanti auguri. Ma sono le 11.55 e quindi il nostro programma giunge al termine, ma se non prima di darvi alcuni appuntamenti. Il primo è quello di stasera: dalle 21 alle 21 parte Rock Revolution con Simone e Filippo Brancato, quindi stasera l'appuntamento con il grande rock e pure musica dal vivo con le band musicali del territorio, quindi non mancate a questo appuntamento. E inoltre il nostro appuntamento è per lunedì sempre dalle 10 alle 12, sempre con me, con Patrizia Curreri, quindi non dimenticate di essere numerosi, perché appunto ci si sveglia, ci si diverte e si trasmette un po' di leggerezza e spensieratezza che nella vita non deve mai mancare. E vi saluto appunto lasciandovi con una frase del telefilm Grey's Anatomy, particolarmente appunto inerente ai nostri temi che trattiamo durante tutta la mattinata di CRM e più Wake Up. Alla fine della giornata il fatto che abbiamo ancora il coraggio di restare in piedi è già un motivo sufficiente per festeggiare, quindi festeggiamo. E un saluto a tutti, ciao. I remember. I'm not mad at you at all. But I want the whole world to celebrate. Yeah. Right about now, it's time for everybody to stand up, stand up, stand up.